Io e poi direi Pasquino e poi Puggiu. Ripeto, il nostro tempo sono le 9:15, io direi che in ogni modo io e Prodi dovremmo finire per le 10. Questa sensazione è un po' ambigua, signore, ma... No, non è stato ambigua. Prego. Perché poi, appunto... Io posso andare fino a 10:05 e dare a lui l'alibi o viceversa. Perfetto. È un po' complicato veramente parlare in questa sede e per la conclusione di chi mi sta intorno è perché anche questi interventi erano previsti, continuando un po' l'introduzione di Schira sul piano culinario, semplicemente come contorno, questo è il nostro discorso, al piatto forte di questo seminario che era la relazione del professor Rainer. E la relazione del professor Rainer di ieri ha confermato ancora di più questo parallelo culinario. Ecco, quindi noi ci troviamo di fronte a un problema in cui stamattina così pizzichiamo qualcosa. Ma il problema è al di là di questi interventi, direi. Per quanto mi riguarda, poi aggiungo che il mio intervento è ancora più frammentario nella misura in cui presenta alcuni aspetti di una ricerca in corso e quindi è destinato soltanto a lo spazio esposto pur che io rubi a Schira a tutte queste mezz'ora, ma insomma non può essere sufficiente. Dunque, sudditi e fedeli nello Stato Pontificio, ecco, è un accostamento ad una realtà, vuole essere insomma, ecco, un accostamento nell'ambito dei discorsi fatti ieri, di disciplinamento nel sociale all'inizio dell'età moderna, a un accostamento concreto, proprio ed era un po' una delle conclusioni della discussione di ieri sera, la necessità di affrontare non problematiche appunto astratte in cui si stemperano le coordinate cronologiche e spaziali, ma esempi concreti di questo impatto e di questo nuovo aspetto che ha la crescita del disciplinamento sociale tra medievo e età moderna. Ecco, lo Stato Pontificio ha attirato da alcuni anni proprio per essere un caso anomalo, ovviamente, e quindi mi pare abbia degli elementi di interesse, come tutti i casi anomali, quando si vuole affrontare, tutti i casi apparentemente anomali, quando si vuole affrontare un determinato problema. Ecco, al centro è uno dei problemi che erano venuti fuori proprio ieri pomeriggio, cioè le mutazioni e i passaggi nell'affermazione dell'autorità da una parte, della soggezione e dell'obbedienza dall'altra, tra il medioevo e l'età moderna. Un tema immenso, appunto, in cui ci si disperde e in cui la cosa più importante è evitare il fascino appunto delle teorizzazioni onnicomprensive per cercare invece di ricostruire piccoli frammenti, questo è l'intento, che ci aiutino a capire lo sviluppo delle forme di disgregamento sociale nella concreta situazione. Da questo punto di vista, il caso dello Stato Pontificio può essere considerato, come dicevo, particolarmente interessante, non tanto per riprendere la discussione generale sull'influsso della dottrina teocratica tradizionale nello sviluppo dell'assolutismo monarchico, questa è una cosa appunto da decenni studiata e sviluppata da tutte le parti, insomma, ecco, sui rapporti tra l'affermazione monarchico-papale, teocratica, disciplina generale e la crescita delle dottrine assolutistiche, non è questo quello che ci interessa, quanto cercare di capire come si sono composte concretamente all'interno della monarchia temporale dei papi le vecchie e le nuove forme di esercizio del potere e di soggezione al potere. Ecco. Volendo schematizzare, bisognerebbe incominciare a illustrare cosa vuol dire fedele e cosa vuol dire suddito nel linguaggio del Medioevo, e cosa che non sono in grado né ho la possibilità di fare qui. Posso solo cercare di schematizzare, chiedendo scusa a coloro che ne sanno più di me, tre posizioni diverse di interpretazione di questa realtà. Da una parte l'interpretazione che ha trovato probabilmente in Walter Ullmann la sua formulazione più moderna, ricordo il libro Individuo e società nel Medioevo, che vede un'identità sostanziale nel mondo medievale tra fideles e subditi, nel loro inserimento in una società che è tutta inglobata nella Chiesa con caratteristiche teocratiche e gerarchiche. Ullmann è chiaro, i fideles e i subditi sono la stessa cosa sostanzialmente, non c'è nessuna distinzione all'interno di un mondo in cui la realtà politica è parte e soltanto parte di una realtà più grossa che la Chiesa. E solo con lo sviluppo aristotelico umanistico dal secolo XIII in poi, dice Ullmann, come è noto, e chiedo scusa di ripetere cose oggi, si sviluppa tutta una tendenza a considerare l'uomo come naturale e non come cristiano. Nasce il civis in senso moderno e si avvia quella lunga marcia verso il costituzionalismo moderno, un collegamento con la tradizione feudale, dice Ullmann, particolarmente nella versione che si sviluppa nei paesi anglosassoni. E questa, diciamo, è la interpretazione più diffusa. Una seconda posizione possiamo schematizzare, che parte dalla stessa analisi della teocrazia medievale, per giungere invece a vedere nel nuovo Stato moderno la riconversione secolarizzata ma sempre totalizzante di questo potere, di questa soggezione, che continua a identificare fideles e subditi delle monarchie nazionali come nuovi corpi mitici. E questo è un altro tipo di approccio a questo problema, mi pare. È un approccio che direi continentale, se vogliamo definire insulare la posizione di Ullmann rispetto a questo problema, insomma. Cioè, in questa seconda tesi, con decine di autori, si cerca di, diciamo così, collegare direttamente appunto questi aspetti totalizzanti con un circuito diretto tra la Chiesa medievale e le nuove monarchie, i nuovi stati assoluti. E dal punto di vista del disfruttamento sociale e dell'analisi del diritto canonico come matrice del diritto statuale moderno. Qui, appunto, il libro di Legendre che guardavamo l'altro giorno, Gli Scomunicanti, è tradotto in italiano da Marsilio, ha questo tipo, direi, di impostazione. Nel senso appunto di questa traduzione del diritto canonico nel diritto statuale moderno e quindi di tutta la struttura della Chiesa medievale come genitrice di questa nuova realtà. Un terzo accostamento, secondo me, potrebbe essere riallacciato a Weber, nelle pagine soprattutto sulla Ratio Theologiae, nel senso appunto di invece evitare l'identificazione così stretta di un rapporto diretto, ma di cercare di cogliere tra il diritto canonico e il diritto profano, medievale, eccetera, il permanere di certi tipi di alterità, nonostante i tentativi di sopraffazione teocratiche o cesaropapiste, ecco, un sistema che rimane sostanzialmente dualista e quindi non approda a una realtà totalizzante, nonostante molti tentativi di totalizzazione, direi. E quindi vedo in questo dualismo, in fondo, una delle caratteristiche che ha permesso uno sviluppo della società occidentale europea. Mi scuso di avere schematizzato in modo così eccessivo, ma volevo richiamare questo per dire che l'interesse dello Stato pontificio deriva proprio da questo, nel tentativo di cogliere, cosa che non mi risulta fatta dalla storiografia, cosa è avvenuto quando il papato stesso si è dato una configurazione statale in senso moderno. cioè a partire dalla metà del 400. Che prima non si può parlare di Stato pontificio in senso proprio, anche se sappiamo benissimo tutti i tentativi che ci sono stati durante il Medioevo, ma si trattava di un dominio che era talmente subordinato alla funzione del Papa come capo della Chiesa da non avere, a mio avviso, una realtà in se stesso, insomma. Ora, l'interessante è invece cercare di vedere cosa è avvenuto quando appunto il papato si è definito come monarchia temporale. Si è parlato molto dello sviluppo della politica concordataria, anche qui le coincidenze di date sono abbastanza interessanti, perché è proprio dalla metà del 400 che si sviluppano, ma non si è capito molto appunto di quale sia stato appunto l'influsso di questo Stato papale in questo nuovo avvio di rapporti non solo tra Stato e Chiesa, ma appunto all'interno dello sviluppo complesso della società occidentale. Quale ordinamento giuridico si è affermato nello Stato del Papa, eccetera. Il diritto canonico ha continuato a valere come diritto del Papa Re allo stesso modo di prima, senza un mutamento sostanziale, o si è trasformato in diritto statuale? Che cosa è avvenuto in questo passaggio? Ecco, naturalmente anche a questo proposito devo saltare innumerevoli passaggi che dovrebbero in qualche modo dimostrare questo carattere di statualità del dominio, che il dominio pontificio viene a assumere dalla metà del 400, praticamente dal papato di Niccolò V in poi. E quindi questo è il discorso che salto proprio fuori completamente. Quello che nasce è la figura del Papa Re, che secondo me ha caratteristiche completamente diverse da tutte quelle che caratterizzavano appunto le affermazioni teocratiche dei periodi precedenti. E quindi fermo un istante all'esemplificazione tratta da un discorso di Papa Pio II, Papa Piccolomini, il famoso De Otto et Autoritate Sacri Imperi Romani, e scritto intorno al 1453, ed è il Papa stesso che teorizza, a mio avviso, in modo non ancora Papa, insomma, è Piccolomini che teorizza in modo formidabile questo tipo di passaggio, secondo me. Cioè, per dominare i sudditi, riassumo, e questo testo è stato visto da altri punti di vista, ma poco mi pare da questo. Ci vuole, non basta la instruzio, che è proprio dei sacerdoti, ma ci vuole anche la precezio dei re. Quindi, per governare i popoli, ci vuole la precezio del re e l'instruzio del sacerdote. Ecco. Non è più una visione in termini appunto di potere teocratico, di a mio avviso, insomma, ecco, ma è la visione di un nuovo modo appunto di diciamo nel nostro linguaggio di disciplinamento sociale, in sostanza è la formazione di un modello di fedele suddito in cui precepzio e instruzio fanno parte di un'unica entità politica. La politica è precepzio del re, ma è instruzio. Questo, secondo me, è ovviamente io semplifico su un testo cose che andrebbero dimostrate su moltissimi testi. La conclusione è multo igitur et mellus et sanctus regit il populus, qui sub bono sacerdote e quam sub bono laico gubernantur. Cioè, i sudditi, i popoli, sono governati meglio da un buon sacerdote che da un laico, in quanto il popolo può ribellarsi ai sacerdoti, che post enim potest enim hic aliquando sacerdotibus adversari qui non si è circa sacramente subiecti. Cioè, quando manca appunto la soggezione all'instruzio, non ci può essere potere politico completo. Quando manca la soggezione alla prescrizione, non ci può essere potere politico completo. Quindi la soggezione in senso moderno, secondo me, e qui espressa da Pio II molto lucidamente, insomma, ecco, ille qui presto omnibus ha senso di sentire non potest. La validità è meglio il governo dei sacerdoti, perché? Perché il sacerdote, possedendo la istruzione, può dissentire da se stesso, insomma. E mentre invece può prescrivere, cioè può utilizzare il potere politico in senso autoritativo valendosi di altri. E qui c'è tutta una teoria di che, ecco, il Papa o il Papa Re, ecco, dico questa espressione per semplificare il mio discorso, può servirsi di governatori, di giudici, laici, può fare tramite laici tutte quelle cose, eccetera, e può avere dei condottieri laici alle sue dipendenze, ecco. E poi si pone anche il problema, ma allora perché le città sottoposte ai sacerdoti ad esterminio un codamodo deducte di dentro? Cioè, in realtà però appare desolante il panorama politico degli stati sottoposti agli ecclesiati. Allora lui dice, questo è capitato o perché i sudditi, e questo è un po' la frase da cui ho preso il titolo di questo breve intervento, vel qui a sudditi parum fidele fuerunt, ecco, o i sudditi sono stati poco fedeli e si sono date alle sedizioni e alle novità, vel qui a summi pontificis abusi potestate regium imperium in piramide conventori. Cioè, oppure i sacerdoti sono diventati dei tiranni, ecco, non hanno usato il potere monarchico in questo senso di istruzio anche, ma qui c'è un discorso complicato, cioè per la crescita in qualche modo della collettività statale. Non posso dimostrare anche qui tutti i passaggi, ma ho voluto rifarmi a questo brano per dare proprio un elemento, secondo me, di questa evoluzione, insomma. Ecco. E qui ormai sono all'inizio, ma devo essere anche alla fine, insomma. E quindi salto tante altre cose che pensavo di dire, ecco. E mi mantengo in un'esposizione assolutamente paradossale, collegandomi a una frase di Hobbes di due secoli dopo. Ho dei saltini intermedi, ma ecco, dice, è vero, il Papa in Roma è re e Papa, comanda ai suoi sudditi e da tutti i punti di vista e alla pienezza del potere politico, appunto, diremmo secondo più secondo di istruzio e di precetto. Ma allora, se è vero, i re cristiani sono soggetti di Cristo, ma sono in questo fellow del Papa, cioè compagni del Papa. Cioè, in sostanza, c'è l'assimilazione di questo principio, mi sembra appunto, chiedo scusa ancora una volta di queste semplificazioni, e secondo me in questi due secoli, in sostanza, questo principio, che a mio avviso ha poco a che fare con la impostazione teocratica di tipo medievale, ma contiene degli elementi di novità estremamente rilevanti, è stato assorbito in vario modo, appunto attraverso anche le concessioni che il papato attraverso i concordati fa agli stati, o assorbito in modo traumatico attraverso la nascita della Chiesa sismatica gallicana, o in altro modo, abbiamo questo tipo di passaggio, che ha poi appunto delle conseguenze anche sul piano interno dello Stato politico. E qui ci sarebbero altri testi da citare, ad esemplificazione proprio di quello che un diplomatico veneziano del 600, Basadonna, chiamava la trasformazione delle leggi dell'apostolato in leggi politiche. Anche qui forse è bene di darvi una piccola... Basadonna, un ambasciatore veneziano che in una sua relazione intorno al 1640, mi pare, no, nel 1664, dice, vabbè, un tempo la Chiesa predicava il Vangelo, eccetera, eccetera, ma adesso che al principato spirituale ha il temporale congiunto, bisogna cambiare le leggi dell'apostolato nelle politiche. E perché la nave di San Pietro alle fluttuazioni mondane possa resistere, rendersi capace della mercanzia alla quale è destinata al presente, cioè questa nave di San Pietro che ha cambiato mercanzia, e alla quale non basta che di legname diritto venga tessuta, questa nave non basta che venga fatta di legnami diritto, cioè in sostanza di uomini apostolici, che è necessario farvi entrare anche del torto e costruirla sopra un modello tutto differente dal primo. Il paragone della nave di San Pietro costruita, ecco, ma appunto lo volevo solo esemplificare. E poi ci sono appunto le esemplificazioni invece, le cose più interessanti, cioè l'elaborazione giuridica che si trova appunto in De Luca, in Cardinale Giovanni Battista De Luca, la sua massima poi espressione a metà del 600, nei decenni immediatamente successivi a metà del 600, sulla quadruplice figura giuridica del Papa, che è importante al nostro tema. Cioè il Papa ha in realtà in se stesso quattro figure giuridiche: la figura del capo della Chiesa, la figura del Vescovo di Roma, la figura del primate d'Occidente, la figura invece del principe, ecco. E quindi il suo potere è diverso e qui dovrei entrare in altri problemi, ma mi limito a dare solo i titoli di possibili capitoli, perché ormai finisco, se no scrivo un'analisi troppo facile. Ecco, un capitolo è appunto, il titolo è ordinamento canonico e ordinamento statale, ecco, cioè il Papa Re, ecco, emana un diritto che è misto e non distinto dal diritto canonico, praticamente il Bollai Romani, le grandi raccolte di bolle papali, raccolgono dentro sia le leggi che il Papa fa per la Chiesa universale, sia le leggi che il Papa fa per lo Stato. Ecco, ma appunto l'interesse è di vedere all'interno il rapporto tra questi tipi di giurisdizione e la conflittualità che ne sorge nell'applicazione della giustizia. Un ulteriore punto potrebbe essere, e appunto enuncio solo i titoli, i problemi dell'ordine pubblico, quindi l'analisi dei bandi generali, cioè di quelle raccolte di prescrizioni generali per lo Stato pontificio e la loro applicazione da parte delle autorità periferiche. Ricordiamo appunto l'importanza che ha avuto un Guicciardini, non solo dal punto di vista del pensiero politico, ma come, secondo me, una delle principali espressioni del governo periferico dello Stato papale, che dovrei leggere le sue lettere, ma insomma, scriveva a Roma, stanotte ho impiccato due frati, chiedo la soluzione, ma devo proprio impiccarli. Però li aveva già impiccati, insomma, ecco. Dire il laico Guicciardini, insomma, questo lo dico solo come esempio per far capire, insomma, ecco, il tipo di problemi che ci sono sotto. Un quarto punto è l'uso delle censure a scopo politico, anche questo è molto facile a capire, la comunica, l'interdetto, eccetera. E qui è sempre il Pio II, che è un bellissimo passo, quando proprio ce l'aveva con i malatesta e voleva riprendere e cancellare malatesta dalla faccia della terra, il signore di Rimini, per riprendere Rimini all'interno dello Stato Pontificio. E a un bellissimo passo in cui dice, beh, insomma, adesso li combatto, se poi non bastano le armi temporali, allora ci metto anche quelli spirituali da tutti. È un passo bellissimo, insomma, ecco, da questo punto di vista. E lo dico solo appunto in modo anedotico, ma vorrei approfondire questi temi, perché abbiamo causa della bolla in cena domini, e che ha dei riflessi molto importante anche per lo Stato Pontificio. Altri punti interessanti potrebbero essere, e l'avevo messo come titoli da sviluppare, e avrei dovuto leggere alcune cose, sulla tassazione, la crescita appunto della tassazione nello Stato Pontificio, è uno, secondo me, uno degli episodi più interessanti proprio per l'uso del potere spirituale nel far crescere questa coscienza della tassazione. Nell'Occidente, cioè della tassazione come elemento permanente di mantenimento di un potere che non è più il potere personale del tale monarca o per la tale guerra o per la tale impresa, ma è lo Stato, in questo caso, qui c'è tutto il problema del fisco, che è anche il fisco papale, tutta una serie di cose abbastanza interessanti, secondo me, ma che... Un punto vecchio per me, perché è forse il punto da cui avevo cominciato tanti anni fa a intravedere in questo caso dello Stato Pontificio un'anomalia storica assolutamente interessante, è il problema degli impedimenti, i cosiddetti impedimenti a residenti, cioè degli impedimenti che i vescovi nello Stato Pontificio denunciavano nei confronti del potere politico del papato, dei confronti dei governatori pontifici, nei confronti dei legati pontifici, come ostacolo alla loro azione pastorale, cioè dei conflitti, diciamo, Stato e Chiesa all'interno dello Stato Pontificio. Questo era stato il mio punto di partenza per questo tipo di problematica già 15 anni fa, no? È il punto, direi, più vecchio da cui ho cercato di sviluppare. Se volessimo ricapitolare e finire, c'era una frase di Campanella che avevo tirato fuori l'altro giorno da utilizzare come inizio di un capitolo di questa cosa. Dice Campanella: dov'è la differenza tra popoli ecclesiastici e gli altri? Siamo agli inizi del 600. Le pene, i tributi, le carceri, i tormenti, le angherie sono simili per Stato Pontificio, non Stato Pontificio. Dunque, tutti camminano per una via. E così i principi credono che il papato sia simile al dominio loro e lo obbediscono per servirsi di lui, non per servire a lui. E questo viene perché noi ci servimo di Dio, ma non servimo a Dio, e così si perde la fede. Cioè, c'è questo intreccio, insomma, del papato che serve i principi e in qualche modo... questo secondo me mi collega fortissimamente con quello che diceva Reinhard ieri, insomma, di questo tipo di ciclo che in fondo va studiato come un unico fenomeno, cercando di analizzare i particolari, ma come in realtà si può dire che la storia occidentale si risolve il rapporto fedele suddito a favore del secondo termine, cioè nelle monarchie nazionali cattoliche come negli stati aderenti alla riforma. Abbiamo visto anche ieri proprio il formato del suddito in queste forme di disciplinamento, avviando processi ben noti. Per il papato il tentativo di un diverso modello di unificazione dei termini, tentativo che abbiamo visto, a mio avviso esiste e va recuperato storiograficamente, non riesce. E la rottura tra chierici e laici è una delle manifestazioni di questo fallimento. Cioè, all'interno poi dello Stato Pontificio, appunto, il fenomeno più interessante è la formazione di questa burocrazia clericale, perché appunto si va un po' avanti facendo uscire Guicciardini, preti e poi chiedere la soluzione. Qui naturalmente la cosa più semplice è nominare un vescovo che possa uccidere i preti senza aver bisogno di chiedere la soluzione, quindi i vescovi diventano governatori, c'è la penetrazione dell'apparato statale, tanti fenomeni su cui nomino. Ecco, credo però che questo tentativo vada recuperato anche in questo fallimento, in queste nuove tensioni. La ripresa dell'azione universale dei papi della controriforma si è ritorta contro lo Stato pontificio, condannandolo a una lenta ma assoluta decadenza. Non solo per le cose ben note, cioè che lo Stato pontificio si è trovato dalla seconda metà del Cinquecento in poi a pagare molto pesantemente l'azione universale del papato in questa nel modo anche finanziario, nel modo più concreto possibile, proprio perché mentre prima appunto Roma mingeva soldi da tutta Europa, invece dopo è lo Stato pontificio che deve contribuire in modo passivo, molto forte, come si sa, all'azione universale del papato. E questo è noto, ecco. Ma io penso si può vedere anche un po' in altre direzioni questo processo. Si potrebbe dire paradossalmente che proprio per questa per l'azione della controriforma lo Stato pontificio non riesce a utilizzare la fase della confessionalizzazione come elemento fondamentale di coesione sociale, cioè questa diramazione, questa impossibilità di una richiusura nella politica statale, proprio perché i papi hanno una forte ripresa dalla seconda metà del Cinquecento sul piano dell'azione universale come capi della Chiesa, che impedisce di utilizzare queste potenzialità della confessionalizzazione e appunto il fallimento di una unificazione del termine fedele subito come prima appunto avevo prospettato. Ho rubato lo stesso del conto. Io vorrei invitare solo a una certa prudenza fumandi, nel senso che siamo in molti e c'è proprio avere un po' bisogno di mi ricordo molto dai toscanisti, in modo che non è perché Paolo adesso giustamente ha diritto al suo toscano, non è che non voglio togliere questo diritto, però ma compra, quindi questo è davvero forse anche per farmi di parlare, probabilmente. È però un hobby che ho questo di occuparmi di questi secoli, insomma, che per me sono misteriosi, i secoli del Rinascimento, del mediato dopo il Rinascimento e così via. E io ormai questa ho visto che in un certo modo insomma riesco a fare qualche viaggio, andare in qualche città straniera, a visitare qualche biblioteca, quindi intenderei andare avanti. E andrei avanti in questo modo, insomma, anche dal punto di vista letterario, usando il modo che usavano gli autori di cui oggi che sono notissimi, di cui oggi parlerò, cioè andrei avanti per esempio. Ecco, quindi più che dei nessi o delle precisazioni di tipo così logico sopra l'andamento di certi processi, io credo che farò dei richiami spesso già noti cercando di collegarli fra di loro, no? E quindi sarà la mia una relazione breve e di tipo anche ristoratorio, insomma, perché dovrebbe non implicare dei grossi problemi di carattere sostanziale. Sono impressioni che do, che sono le stesse impressioni che ho ricavato io, leggendo questi autori, qualche volta rileggendoli. Certamente il problema dei sudditi, il problema degli Untertanen, di cui ieri abbiamo colto tutta la grossa importanza, è un problema che sta sotto queste impressioni anche mie, e però certo ieri per esempio il professor Reinhardt precisava che lui con riferimento a questo processo di confessionalizzazione di social disciplinium ogni tanto faceva riferimento al termine Stato, al termine sistema, però giustamente precisava si tratta di un'espressione sintetica per indicare dei gruppi, no? di uomini, dei gruppi di potere, qualche volta dei Massgeben, diceva Gruppen. Ecco, io vorrei appunto tutto sommato stringere in questa osservazione tutto un po' il mio discorso. Mi interessa cercare di capire come si formano questi Untertanen, questi sudditi, questi soggetti, cioè qual è la mentalità a cui si ispira una figura come quella del Untertan, ma contemporaneamente mi rendo conto che per la letteratura che io ho esaminato ed esamino, questi Untertanen non sono Untertanen generici, ma sono Untertanen, sono Massgebende Untertanen. Allora ecco, direi che rispetto a quello che si diceva ieri, questi Massgebende Gruppen sono importanti, questi gruppi insomma di potere, sono importanti e vanno studiati sia con riferimento, diciamo così, alla struttura dello Stato, quindi al potere, cioè sia come soggetti attivi, ma anche come soggetti passivi, cioè come sudditi. Cioè, questo in qualche modo riprende l'osservazione che c'era ieri Puddu della centralità dei ceti, degli stende, ancora in questa fase, insomma, no? Quindi gli stende che sono contemporaneamente soggetti attivi e soggetti passivi, a seconda dei luoghi, a seconda delle posizioni, a seconda dei momenti, in questa fase di formazione della nuova politicità. E quindi questo è semplicemente l'indicazione di ricerca che faccio, e poi il resto, ecco, vabbè. Il titolo è un titolo assurdo, puramente arbitrario, insomma, un hashtag decore vivere. Comunque mi rimando immediatamente alla scelta di un autore tedesco che a me è molto caro da sempre, che è Christian Thomasius. Questa scelta l'ho compiuta perché Thomasius ai miei occhi è un po' l'incrocio, insomma, alla fine del 600, tra 6 e 700, di due tendenze che sono due tendenze che secondo me condeterminano, insomma, la novità della realtà politica moderna: quella del disciplinamento e quella dell'ordinamento, in una formula che, se non sbaglio, sarà costitutiva appunto del modello politico europeo nell'età moderna. L'impianto filosofico di fondo di Thomasius lo diamo per scontato. Secondo me però, tra i filosofi fondatori dell'illuminismo moderno, egli è tra i più interessati proprio allo studio e all'educazione della persona umana in quanto tale, intesa non solo nei suoi fondamenti individuali, ma proprio nella sua obbligatoria costituzione sociale. Cioè, ecco, in Tommaso direi che è evidente continuamente nel suo esercizio, sia teorico ma anche didattico, che è estremamente importante, è veramente un nuovo precetto Germania, secondo me, Tomasio, è evidente questa preoccupazione di collocare sempre la persona dentro nel suo contesto sociale. Ecco, è da questo punto di vista che viene fuori il discorso, secondo me, fondamentale della filosofia tomasiana, che è il discorso del dovere, cioè il dovere diventa il fondamento, insomma, no, della posizione dell'individuo nel mondo, ma come vedremo poi alla fine, secondo me il dovere diventa anche il modo con cui si sublima e si astrae, credo veramente con grande efficacia, tutto il secolare discorso sulle virtù e sui vizi. Ecco, le virtù e i vizi cessano di essere Eigenschaften personali, diventano invece una proprietà pubblica, il dovere, a cui poi immediatamente corrisponde il diritto, perché non dimentichiamo che subito dopo Thomasio viene Wolff, che tra Tommaso e Christian Wolff si costruisce questa macchina infernale di diritti e di doveri soggettivi su cui lo Stato moderno finge di essere stato di diritto per i secoli successivi, secondo me. Ecco. Il testo, ecco, tagliando proprio corto, perché io avrei già finito praticamente, mancano 5 minuti, il testo che uso è un discorso, il primo discorso, sembra che sia il primo discorso, la prima lezione pubblica, la prima forlesum, il primo seminario tenuto in tedesco, in lingua tedesca, in un'università tedesca. Non so se è vero però, perché c'è il professor Hammerstein che forse smentirà, però è il famoso discorso sul modo in cui si devono imitare i francesi, nella vita e nei rapporti comuni. Ecco, questo è certamente importante. Un autore tedesco che era fine 600, il 31 ottobre del 1687, in una situazione in cui i rapporti tra l'altro con la Francia non sono certamente rapporti idilliaci, provocatoriamente in lingua tedesca si rivolge a quelli che lui chiama i Meine Herren, ai suoi studenti, e si interroga e li intrattiene sul modo in cui si devono imitare i francesi nella vita e nei rapporti comuni. Venuto a Lipsia la gioventù studiosa e vertente intorno alle massime, questo è proprio stanno il contestito di questo libretto, alle massime di Gratian per vivere secondo ragione, intelligenza e maniera. Ein Collegium über des Gratians Grundregeln vernünftig, klug und artig zu leben. Queste massime di Gratian a sua volta erano da poco reperibili in Germania, essendo stato tradotto nel 1686 il famoso oraculo manual col titolo L'homme de cour, Oda Balthasar Gratian vollkommener Staat und Weltweise, eccetera. Anche se però sembra che Tommaso abbia preso conoscenza diretta della traduzione francese che c'era stata dell'oraculo manual proprio col titolo L'homme de cour a opera di questo importantissimo tramite culturale francese della metà del Seicento che è Amelot de la Houssaye. Qui c'è bisogno da dire, ma accenneremo brevemente alla stranezza di questa traduzione, cioè l'oraculo manual diventa l'homme de cour, l'homme de cour, il cortigiano, innesta subito una serie di percorsi mentali che secondo me sono sbagliati, ma che però ci sono e che quindi bisogna considerarli. Ecco. Ci stiamo avviando verso la Francia, o siamo, veramente, siamo nella Francia di Filippo XIV, cioè siamo, c'è la corte, quindi l'homme de cour della Houssaye non è, si riferisce a Filippo XIV, non si riferisce a forse a Urbino. Questo crea però, come capite, subito una, secondo me, confusione proprio in termini anche concreti, sostanziali, di cui bisognerà prendere atto e di cui bisognerà anche capire il significato. Io non lo spiegherò, però penso che sia una delle cose da studiare, credo che ci sia molta confusione e contorcimenti in questa vicenda. Tanto che lo stesso Gratian dice ai suoi studenti, in questa forlesum, spiega di cosa si vorrebbe occupare, chi sia Gratian, che cosa ha scritto d'altro, questo è interessante anche dal punto di vista della didattica che questo grande appunto maestro Tommaso in pratica, no, attuava, cioè dice come funziona un seminario. Ci interroghiamo su chi sia Gratian, che cosa ha scritto d'altro, che cosa si deve pensare di questo libro, che cosa si deve rispondere alla censura, in particolare al gesuita Buhr. Ci interroghiamo su Amelot de la Houssaye, ne discutiamo la traduzione, gli altri scritti e gli oppositori. E in particolare ci chiediamo se ha ben tradotto con Homme de Cour il titolo di Gratian, quindi questa preoccupazione che lui aveva già subito allora Tommaso. Che cosa si deve pensare delle note che Amelot de la Houssaye ha fatto? Quale ordine tenere nella spiegazione del libro? Quale vantaggio sperarne per gli studenti? Fino a che punto sentirsi capace di accettare e seguire lui stesso, Tommaso, le massime di Gratian? Io direi che chiuderei questa, darei solo come spunto questo, tenendo presente che però Tommaso mette all'inizio e alla fine di questo libretto, di questo suo forlesum, due massime di appunto Gratian. La prima, che è la numero 67, che però non ho trovato poi nell'edizione che è stata usata per una traduzione italiana che ho usato io, che nella versione francese dice «Dans les fonctions de l'esprit, le plausible a toujours triomphé», quindi il plausibile, no? Il plausibile. Quella finale invece è la massima numero 79, che dice all'inizio «L'humeur joviale è une perfection plutôt qu'un défaut quand il n'y a point d'excès». Quand il n'y a point d'excès. Quindi il plausibile è la mancanza di eccesso. Credo che non sia, che ci si possa già forse ragionare su un po'. Sono due belle massime, certo non tra le più impegnate delle 300 che compongono l'oracolo manual, sono però sei indicative dell'atteggiamento che Tommaso sembra avere rispetto a Gratian. Mi pare che gli interessi di più il modo del contenuto. Egli mi pare che insista più sulla socialità del comportamento piuttosto che sulla cogenza interna dello stesso. Insiste sul riscontro statistico medio piuttosto che sulla plausibilità originaria dei comportamenti. Il plausibile, appunto. il non eccesso, secondo me, denotano proprio un atteggiamento di tipo statistico, insomma, cioè di tipo sommatorio, no? Fra atteggiamenti che nella loro individualità possono essere anche diversi, ma che devono orientarsi verso una media. Bisogna aggiungere che per Tommasio il discorso di, tra l'altro bisogna dire anche che per Tommasio, leggendo questa operetta, ma non solo lì, insomma, c'è questa centralità del tema della private zone, insomma, cioè della persona privata. Allora, anche questo è un elemento che serve, cioè è una private zone che però si deve comportare in modo medio, quindi questo. Ma siamo alla fine di tutto il processo che mi interessa, no? Invece di però andare indietro, per cui si potrebbe, appunto, a Melo dello stesso, si potrebbe Graziani, le fonti di Graziani, eccetera, faccio un salto per andare invece a cercare, dopo questa parentesi che si chiude, secondo me, in Tommasio, eventualmente una parentesi che apre il discorso, cioè un luogo in cui si possa vedere ancora il vecchio o l'antico rispetto a una invece possibile, plausibile novità per questi grandi problemi. Trovo un libretto famosissimo, scoperto dopo averlo poi visto e averti guardato un po' all'inizio, però mi sembrava invece raro, invece famosissimo, di un frate che si chiama Jacopus Acetolis, intitolato in una delle sue numerose versioni De Ludo Scaccorum, cioè gioco degli scacchi, ed è dedicato però anche al gusto di occuparsi del regiminis acmorum hominum et officium virorum nobilium. È probabilmente composta alla fine del 200, diffusa prestissimo in tutta Europa, non c'è grossa biblioteca europea che non abbia manoscritti di questo libretto, ma soprattutto la fortuna sua sub specie incunaboli è grandissima, perché dopo l'invenzione della stampa noi possiamo, per esempio, sapere che dal 1479 al 1493, quindi in meno di 20 anni, non 15 anni, si notano certamente almeno 6 traduzioni in tedesco alto e basso, in italiano, in francese, in inglese, in olandese. È un'opera che si diffonde a macchia d'olio. In particolare l'opera si presenta anche come moralizzatio super ludum scaccorum, quindi questo fa subito vedere come quale fosse l'intento, insomma, no? E soprattutto quale fosse in fondo la ragione della sua fortuna. Per dare un significato, per dire subito che cosa ci trovo dentro, faccio un'altra citazione ricavandola da questo signore che si chiama Richner, il quale sostiene che questo trattatello è fonte indubbia di una cronaca famosa del regno di Carlo VIII, in versi, che si chiama Le Vigiles de Charles VII, all'opera di Martial de Paris, di Dauvergne, procureur au Parlement. Qui cosa c'è di bello? C'è che in questa operetta, che sono Le Vigiles, dice, ci sono tre versi, in cui dice... in cui sono sei versi veramente in cui viene citato questo filosofo Xerxes, che è lo stesso secondo cui che è lo stesso il quale secondo il frate De Cezzolis ha inventato il gioco degli scacchi alla corte di Babilonia, no? Questo Xerxes è un sage filosofo, dice che nella giustizia non c'è toppa peggiore del favore della simulazione, e varrebbe meglio alla fine per giustizia muovere e morire senza signoria piuttosto che non vivere alla corte dei re par flatterie con la durazione. Allora, ci sono secondo me tutti i termini del discorso che sarà successivo qui, cioè la giustizia che viene contrapposta alla faveur e alla simulation prima, alla signoria poi e infine alla flatterie, che è proprio della Cour de Rouen. Ecco, c'è tutto dentro, c'è tutto quello, secondo me sono tutti temi che saranno poi diffusi dentro nel discorso rinascimentale. Però, in realtà, secondo me, questi, come vedremo, questi termini sono qui giocati e vissuti in un modo vecchio. Cioè siamo sulla soglia, dico qui, moderna, ma al di qua della soglia moderna, ma la porta è aperta, cioè si vede cosa c'è al di là. Ecco, questo direi come due richiami diretti dal Libellus, che da una versione italiana. Il primo, che è tratto dal capitolo 4 del Trattato II, intitolato dell'ospizio della forma dei cavalieri, dice che onore non è altro che reddimento di reverenzia in testimonianza di virtudi. Quindi l'onore come rendimento di reverenza, onore come reverenza, no? In testimonianza di virtudi. Il secondo però dice subito che senza potenza di nascimento la gentilezza è vanità e spregio. Quindi anche qui noi abbiamo tutta una serie di termini che saranno propri del periodo successivo. Qui abbiamo appunto l'onore, la reverenza, le virtù, poi abbiamo la gentilezza collegata con la nascita, vanità e spregio. Secondo me non potrebbe apparire più netta la distanza che separa queste affermazioni dalla mentalità che presto sarà moderna. Ecco. Soprattutto la gentilezza si presenta come priva di ogni dignità autonoma, ma collegata solo funzione dello status di partenza dell'individuo, no? Secondo me appunto qui viene fuori appunto la medievalità di questo testo ancora. L'impressione è confermata subito dal modo in cui il nostro scacchista rintraccia e valorizza le diverse virtudi di cui parla. Queste virtudi quali sono e perché ci sono? Sono inequivocabilmente assegnate ai singoli status che si muovono in quel gran regname che è lo scacchiere. Lo scacchiere è il regname, anzi è tutto questo mondo, dice il frate. E sopra ci sono delle figure. Queste figure sono il re, la reina, gli alfini, i cavalieri, i rocchi in prima fila. E nella seconda fila ci sono il lavorio della terra, l'opera dei fabbri, l'arte della lana, i notari e tanti artefici di pelle e di coiame, i mercatanti e i cambiatori, il medico e lo speziale, i tavernieri e i albergatori, le guardie della città, ufficiali del comune, passaggieri, ovvero cavalieri, scialacquatori dei beni loro, rubaldi, giocatori e paratieri. C'è tutto in questo gran regname. Ognuna delle posizioni elencate ha il suo piccolo stock di virtù e vizi, cioè le virtù e i vizi che sono professionali, sono proprio malattie, sono semi professionali, che però ritagliano alla perfezione il polimorfismo della struttura di vita proprio del Medioevo, in un continuum di prestazioni, in positivo e in negativo, che non lascia spazio né ai bisogni della realtà oggettiva, né alle pretese o alle eventuali aspettative, o alle aspettative di eventuali soggetti attivi. Tutto si tiene, si giustifica, questo insomma è una roba vecchia. Oh. Però il Libellus, alla fine del 400, nel primo 500, durante il 500, continua a avere questa grande diffusione. In un rapporto, in un circolo exempla vici virtù, no? Proprio che è estremamente stretto. Cioè questo circolo exempla, perché tutta questa opera è in tessuto di esempio, no? Il principale è il referente è Alessandro Magno, e questo è fondamentale, come se è una cosa ovvia, insomma. Ma comunque è tutta una serie di questo ritmo era anche proprio compilato delle tavole molto belle di questi esempi, come vengono. Allora, da esempio e vici virtù, esempio e vici virtù, c'è questo intento proprio direttamente, immediatamente didattico, senza delle però adesso ho quasi finito, devo dire appunto che a questo circolo esempio a vici virtù proprio quondam fa riferimento diretto per suggerire elementi di interpretazione di un altro autore che è essenziale per il mio percorso, che è Antonio de Guevara. Io credo questa scheda di quondam lui la chiama scheda, in realtà è veramente molto bella. Io credo che si possa ripigliare quello che dice lui e io credo di poterlo utilizzare anche per le cose che invece penso io, no? Questo Guevara, questo inventore, lo chiamerei proprio l'inventore del reloge, come si diceva, del principe, no? L'inventore dell'orologio di questo libretto che si chiama L'orologio dei principi cristiani, pubblicato per la prima volta nel 529, destinato a Vicente Fortuna, un orologio ingombrante, perché è grosso, ma è un orologio. Una sterminata rassegna di esempla, nel modo antico e vecchio, ma però anche esplicata, questa rassegna è esplicata palesemente all'uso pratico, alla consultazione, anzi alla compulsazione. Secondo una linea che non potrà non stravolgere il tradizionale atteggiamento verso i vizi e le virtù, che vengono sempre più classificate, sezionate, finalizzate, scomposte dal tessuto organico in cui avevano prima acquistato il loro senso, e vengono invece valorizzate all'azione pratica, che inevitabilmente riguarda le relazioni con gli altri uomini, cioè la sfera del sociale. Apparentemente poco è mutato rispetto agli esempi del libro degli scacchi, solo Marco Aurelio ha preso il posto di Alessandro Magno come autorità esemplare, però il calcio in realtà è grande, si può misurare da subito se è vero che il frontespizio dell'edizione dell'81 lo destina a tutti coloro che desiderano di vivere civilmente ed averi e onorati gli uomini, quindi non sono più solo i principi cristiani. In realtà forse non è più vero che santa potenza di nascimento la gentilezza e la verità è pregio. A questo punto tutti possono essere principi. E infatti è cavaliere uno quando come tale si comporta, dirà Juan Ruiz de Alarcón, circa un secolo dopo, ma nella stessa direzione, cito da questa meravigliosa traduzione di Gadda, La verità sospetta, che consiglio a tutti di questi autori barocchi, no? Per Guevara le virtù avevano già cessato di essere qualità intrinseche della nascita e dello status, e invece, secondo me, già in Guevara erano strumenti da usare verso l'esterno, per apparire più che per essere, o forse meglio per trasformarsi più che per mantenersi. Credo che sia la stessa categoria di aristocrazia, io sono convinto di questo, è la categoria proprio stessa di aristocrazia che in questo periodo trasforma la sua base di legittimazione e assume un carattere e una qualità e un intento sempre più produttivistico, direi, ecco, cioè di intervento, di trasformazione, di creazione, eccetera. Vabbè, c'è poi questo discorso del Quevedo che andrebbe pure ripreso, ma questa contrapposizione tra il forte dentro e il forte fuera, che è il di dentro e il di fuori, che è un po' tutto questo, è la chiave per capire il significato della simulazione, insomma, come struttura di comportamento basilare per questi autori e anche per gli utenti, insomma, di questi libretti che vengono librotti, che vengono scritti. Però è interessante che Guevara, secondo me, è già Guevara è già distinto, secondo me, per esempio, da un'altra linea, da un altro filone che invece ha una fortuna, o a cui la letteratura, la storiografia, insomma, attribuisce una fortuna molto grossa e anche maggiore. E mi riferisco, per esempio, a quella letteratura che si chiamerebbe per ideali, insomma, no? Che è anche tipicamente rinascimentale, e gli esempi sono ovvi: da una parte la declamazione de pueris statmac liberali per instituendi di Erasmo, dall'altra parte il cortegiano del Castiglione. Sono più o meno coeri, insomma, con questo orologio guevariano, ma insomma il direi che però ci sono delle differenze, ho scritto molto, insomma, vabbè, Torello, la veloce, questa prudenza in pillole che viene rivolta alla pratica. L'oratorio guevariano non può essere abbandonato senza il rimando all'opera che a un secolo di distanza di Fada Pandon, l'oracolo manuale di cui avevamo parlato all'inizio, cioè allora io vado avanti un po' come gestitrice, vado vendendo, ma credo che davvero ci sia questa grossa affinità tra il reloge e l'oracolo manuale, che è l'opera conclusiva dell'autore, che Gracián, di un altro libro famoso, il Criticon, credo che si dice, non so, che lì ci sarebbe questa citazione che devo fare. Che cosa vedi quando guardi? Vedo, egli disse, una regal madre di tante nazioni, una corona di due mondi, un centro di tanti regni, un gioiello delle due Indie, un nido della Fenice e una sfera del sole cattolico coronato di diamanti in raggi e di gloria in luci. Invece io vedo, disse Critilo, una Babilonia di confusioni, una Lutezia di immondizie, una Roma di mutazioni, una Palermo di vulcani, una Costantinopoli di nebbie, una Londra di pestilenze e una Algeria di prigionia. Io vedo, dice il saggio, che c'è sempre, Madrid, madre di tutto ciò che è buono da una parte e matrigna dall'altra. Poiché così come alla corte accorrono tutte le perfezioni del mondo, ancor più tutti i vizi, poiché chi vi giunge non porta mai il bene ma il male della patria sua. Ecco. Qui secondo me c'è l'esito statistico, sommatorio, che questa cosa c'è, no? Perché appunto è l'uno e l'altro, Madrid, la corte è l'uno e l'altro. C'è questo esito statistico a cui il saggio di Gracian conduce l'analisi della corte. Io credo che tutto sommato, appunto, questo esito statistico medio è quello che più si avvicina al bisogno del mondo alla fine del Seicento, al bisogno di astrattezza, da cui per esempio appunto Tomasio, Cristian Tomasio Campatiti, ricaverà il concetto di dovere come sintesi di virtù e di vizi, ma insieme come parametro generale di comportamento. Non sono quindi d'accordo per una volta con, i miei amici si stupiranno di questo, con Otto Brunner, il quale a mio avviso ha... cioè, è stato per me, cioè, ha parlato di Gracian molto bene, eccetera, nel suo libro sulla vita nobiliare, insomma, eccetera, però secondo me anche Brunner cade in questo vizio, io considero un vizio storiografico, di interpretare moralisticamente questi autori e di imputarli a filoni moralistici che in realtà non ci sono, quindi non è un problema di caduta, no? Di interpretare il disengagno come come pessimismo, come rinuncia, come decadenza, insomma, no? Come tutte queste cose. Io credo invece che qui forse è invece la saggezza, l'eroismo di questo uomo nuovo che realisticamente prende contezza del mondo e vi si commisura. Credo che sia questo che viene fuori da questi autori e credo che questo sia un percorso che attraversa, che nel Cinquecento forse è ancora abbastanza minoritario, ma che prevale sulla letteratura degli ideali e che nel Seicento si afferma in maniera definitiva, con questo orientamento di tipo pratico, no? Ecco, non è, come dice Brunner, l'oracolo manuale, un manuale sulla tattica della menzogna, ecco. E lui dice invece che è un manuale di santità, insomma. La massima numero 300, che è la massima finale, l'ultima massima dell'oracolo, sarà fatta apposta per pregare gli stupidi come me, però insomma la massima numero 300 dice in una parola essere santo, che è dir tutto in una sola volta. La virtù è la catena di tutte le perfezioni, il centro di ogni felicità. Rende l'uomo prudente, vigile, accorto, saggio, valoroso, calmo, integro, felice, degno di plauso, veritiero ed eroe universale. Tre esse lo fanno felice, la santità, la sanità, la saggezza. La virtù è il sole del piccolo mondo e apre il mistero la retta coscienza. È tanto bella che si attira il favore di Dio e delle persone. Non c'è cosa amabile all'infuori della virtù, né cosa detestabile all'infuori del vizio. La virtù è cosa davvero, tutto il resto è da burla. L'abilità e la grandezza si devono misurare per mezzo della virtù e non per mezzo della fortuna. Essa sola basta a se stessa, rende l'uomo amabile in vita e memorabile dopo la morte. Cioè questa virtù è una virtù mondana, una virtù pratica, una virtù da negoziante, come dirà di lì a poco lo stesso in un'altra citazione. E tutta questa virtù poi consiste in questa cosa che secondo me è fondamentale, che è molto divertente, che è la gran sinderesi, la quale è il trono della ragione, base della prudenza, e sotto lo scotto di essa è facile darne il segno, cioè la gran sinderesi, questa qualità, questa quintessenza, questa specie, è ciò che consiste di darne il segno, cioè è che cos'è? È ciò che consiste di raggiungere gli obiettivi, cioè è il progetto, è la capacità di progettare, è la capacità razionale che viene posta alla base di un atteggiamento nuovo, credo, dell'uomo, insomma, ecco. Che il quale uomo invece non deve diventare, deve avere la gran sinderesi, deve governarsi secondo la sinderesi, che appunto per non diventare un tipo mostruoso di sciocchezza. E sono tali i vanesi, i presuntuosi, gli ostinati, i capricciosi, i testardi, gli stravaganti, gli eccentrici, buffoni, i sensatori, paradossali, i settari, ogni sorta di uomini regolati. Quindi questo qui è ecco. Finisce qui perché poi in realtà dovrebbe arrivare al casa che a mio avviso sta a Monsignor della Casa, che a mio avviso è al centro e fa da radice, fa da perno di questa trasformazione, di questo passaggio, ma siccome Monsignor della Casa è questa specie di araba fenice della mia la cosa che si tira ma non si vede, non ne parlo, lasciando quindi qua andare alla disperazione. Vi ringrazio, chiedo scusa. Ho qualche fotocopia di questi due, forse in italiano si dice esattamente frontespizzi. Sì, frontespizzi. Allora facciamo insegniamo uno a noi, no? E io ce l'ho, ce l'ho. Poi un gentile collaboratore, anche quello.